I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Una cosa perlomeno dovrebbe essere certa: le parole pronunciate ieri di fronte all'Assemblea Annuale di Confesercenti dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, almeno dicevamo su questo si può essere d'accordo, sono state di una chiarezza esemplare. Calenda infatti ha detto che la priorità dal punto di vista delle politiche per rilanciare i consumi del paese, la priorità è abbattere il carico fiscale sulle imprese, che costa immensamente meno rispetto al taglio dell'IRPEF. Calenda ha anche aggiunto che chiaramente se vi fossero le risorse sarebbe importantissimo anche abbattere l'IRPEF, ma ha poi motivato con un ragionamento la sua dichiarazione: ridurre l'IRPEF non dà garanzie di un aumento dei consumi e dei consumi nazionali. Diversamente invece, secondo Calenda, ridurre la tassazione sulle imprese porterebbe in automatico a liberare delle risorse e, aggiungiamo noi, a maggior ragione se la tassazione sulle imprese fosse ridotta in maniera sensibile a partire dai neoassunti. Ovvio che da un punto di vista politico ed elettorale, lo capiamo tutti, ridurre le tasse alle imprese, a partire dalle piccole imprese artigiane del commercio, rende probabilmente meno voti che non ridurre genericamente l'IRPEF. Ma il ministro è sembrato fare un ragionamento più economico che di carattere elettorale. Un ragionamento che i più maliziosi hanno voluto leggere anche come una critica indiretta all'operazione ormai famosa degli 80 euro voluti dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Il mercato non è uguale per tutti, soprattutto quando si parla di aziende di Stato. È così che avviene in questi giorni con l'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, che mette in vendita il pacchetto di aziende partecipate dal proprio fondo di private equity e li vuole vendere ai francesi, mentre sono proprio i francesi a comprare e a detenere la quota più alta di aziende in mano pubblica. Di questo ce l'eravamo accorti da tempo, già dai tempi della KLM, ma la radiografia fatta in questi giorni è davvero impressionante. Lo Stato francese possiede 100 miliardi di euro di asset industriali nel proprio portafoglio, pari a circa 1.750 imprese partecipate, un record storico che non ha uguali in nessuna parte del mondo. Ma la cosa più impressionante è il sostegno che sta dando proprio la borsa a tutte le aziende dell'universo pubblico, in particolare e soprattutto da quando si è insediato finalmente un governo forte. Abbiamo sempre saputo che la voglia della borsa è quella delle certezze, che il mercato non è di destra né di sinistra, ma va solo dove trova le migliori condizioni, ed evidentemente sono quelle offerte oggi dal presidente Macron. Non a caso Aéroport de Paris, la holding degli aeroporti di Parigi, è in rialzo del 22% dall'inizio del mandato di Macron, la KLM del 48% addirittura, Airbus, la casa che produce i famosi aerei europei, 7% di rialzo, e EDF, il colosso dell'energia, addirittura il 36%. Ma non è tutto, proprio in questi giorni sempre il governo francese sta negoziando l'ingresso dello Stato persino in una società di scommesse e di scommesse online, la IJDF, in cui dovrebbe prendere una quota del capitale. Che dire, quando un governo è forte, anche il mercato sa riconoscere dove comprare e dove trovare la sicurezza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.